Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In questo nostro appuntamento insieme all'Adico di Mestre, saluto Gianluca Codognato con noi al telefono. Ciao Gianluca. Un saluto a te Francesco e un saluto agli amici radioascoltatori. Ci sono sempre delle cose che fanno sorridere, perché ne parliamo come le conoscessimo, ma poi bene non sappiamo cosa sono. Parliamo per esempio dell'Euribor e dei tassi, perché c'è qualche cosa che negli ultimi tempi è assolutamente interessante e che capita a qualcuno, insomma, di non sapere e magari di pagare dei soldini in più. Ti lascio la parola, Gianluca. Sì Francesco, noi stiamo seguendo da alcune settimane in maniera specifica alcuni casi che li avevamo già anche affrontati con un certo successo, però insomma ci sembra che la questione ormai stia un po' emergendo. Allora, intanto stiamo parlando dei mutui a tasso variabile. Sì. E stiamo parlando appunto dell'Euribor, che è appunto un tasso di riferimento che solitamente sommato allo spread fissato dalla banca ci dà il nostro tasso di interesse mensile, insomma quello che dobbiamo pagare di interessi sul nostro mutuo, ripeto, sempre a tasso variabile. Certamente. Cosa succede però Francesco? Nel 2015 abbiamo un Euribor negativo, e so che sembra strano a dirlo, ma insomma è un tasso con il segno meno, quindi qualche diciamo punto percentuale sotto, e per cui insomma ci troviamo di fronte a una questione aritmetica particolare. Siccome la banca appunto calcola l'interesse sommando il proprio spread, quindi l'interesse che fissa lui, all'Euribor, teoricamente, anzi matematicamente, se l'Euribor è negativo, chiaramente anche il tasso di interesse dovrebbe diminuire. Sì, dovrebbe essere lo spread meno l'Euribor. Meno, esattamente, essendo l'Euribor negativo. Cosa succede però? Succede che chiaramente in molti casi molte banche non calcolano questa cosa aritmetica, nel senso che dovrebbero tranquillamente sottrarre allo spread fissato appunto la quantità negativa di Euribor. Invece ed è qua appunto che nasce la possibilità di una richiesta di rimborso alla propria banca. Invece appunto molte banche a un certo punto, quando l'Euribor va sotto zero, in realtà lo calcolano a zero, quindi calcolano come se non ci fosse, ma anche come se non fosse negativo. Quindi in definitiva sul mutuo, sul nostro mutuo a tasso variabile, ci calcolano lo spread fissato da loro, e calcolando poi che è sommato a un Euribor pari a zero. Le banche in realtà dovrebbero calcolare, molte banche, anzi scusami Francesco, dovrebbero calcolare una rata inferiore in questo periodo. Sì. Rispetto appunto se avessimo un Euribor a zero o anche superiore, e invece tante banche questo non lo fanno. Ciò ovviamente fa sì che in teoria ma anche in pratica molti intestatari di un mutuo possono andare a chiedere appunto un rimborso alla propria banca in relazione proprio al fatto che non abbia fatto questa semplice sottrazione. Ora, la questione in realtà è molto semplice, quindi teoricamente qualsiasi persona può, o andando su internet, scaricarsi il modulo per chiedere rimborso. Chiaramente noi abbiamo preparato un modulo ad hoc che è riservato ai soci e il quale appunto deve essere inviato alla propria banca. In questo modulo si contesta appunto il fatto che il tasso di interesse non sia stato calcolato in modo giusto, come abbiamo spiegato adesso, e si chiede alla banca sostanzialmente di andare a fare un calcolo di quanti soldi in più sono stati spostati, e quindi del rimborso dovuto appunto a chi ha questo mutuo. Ora, già tramite il nostro ufficio legale abbiamo fatto diverse richieste di rimborso. In alcuni casi stiamo ancora aspettando la risposta della banca, però in altri casi abbiamo ottenuto un rimborso con l'ammissione da parte della banca appunto dell'errore, insomma, commesso nel calcolo del tasso. In altri casi invece c'è stata la benevole concessione, diciamo, della banca, che in realtà appunto tra le righe ammette l'errore, però non lo dice apertamente, dice vabbè, per spirito conciliativo vi vediamo insieme, vi restituiamo una parte insomma di soldi che sono stati richiesti, vi diamo un piccolo rimborso. Quindi la possibilità di chiedere rimborso c'è tutta, tranne in un caso che bisogna sottolineare subito. Molte banche a un certo punto si sono tutelate di fronte all'eventualità di dover dare un rimborso per questo motivo. E quindi hanno cominciato a fare diciamo, di firmare dei contratti che hanno una cosiddetta clausola floor, che è il pavimento, e questa clausola praticamente fa sì che la banca non consideri mai l'Euribor negativo, ma arriva a considerarlo al massimo del valore zero, del valore nullo. Quindi, diciamo, sono banche che quando hanno inserito questa clausola non vanno mai a sottrarre al loro spread il valore negativo, l'eventuale valore negativo dell'Euribor, ma al massimo arrivano a un limite minimo che appunto è quello dell'Euribor pari a zero. E quindi ecco, se nel contratto esiste questa clausola, non c'è niente da fare, l'abbiamo firmata, non possiamo chiedere rimborso indietro. Se non esiste questa clausola, noi tranquillamente possiamo, tramite un semplicissimo modulo, ripeto, che si può scaricare da internet, noi l'abbiamo predisposto per i nostri soci, si può ottenere un rimborso. Non stiamo parlando di cifre enormi, però insomma qualche cosa può essere restituito, considerando in che tempi viviamo, considerando le difficoltà nel pagamento del mutuo e considerando che la banca, appena c'è un piccolo rialzo dell'Euribor, sicuramente non si dimentica di alzare anche il tasso di interesse generale, quindi con lo spread proprio, insomma pensiamo che sia proprio il caso di andare a chiedere questo rimborso alla banca se dovuto. Certo, perché poi dipende anche dal tipo di debito che abbiamo con la banca, perché può essere anche significativo, insomma, la differenza di soldi che la banca dovrebbe e potrebbe restituirci. Quindi interessiamoci in questo, chiediamo anche l'eventuale consulenza all'Adico di Mestre, www.associazionedifesaconsumatori.it, il sito con i contatti, i numeri che vi possono servire per sentire l'Adico. Grazie a Gianluca Codognato, alla settimana prossima. Grazie a te. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.